I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Entro una decina di giorni il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dovrà rispondere alle obiezioni europee sui nostri conti pubblici, dopo che dalla Commissione la scorsa settimana è arrivato un preciso richiamo a rispettare gli obiettivi europei, in particolare quello di ridurre il debito pubblico. Dobbiamo dire che negli ultimi 2 anni il nostro Paese ha utilizzato oltre 18 miliardi di flessibilità grazie alle regole europee che offrono questa opportunità ai paesi, e noi eravamo tra questi, che si impegnano a fare investimenti e a realizzare riforme. Maggiori spese sono anche ammesse quando si devono gestire emergenze particolari, come nel caso dei migranti o per il terrorismo. Quest'anno per l'Italia, per noi, si è aggiunto il delicatissimo capitolo del terremoto e dei costi connessi alla ricostruzione per la messa in sicurezza dei territori. L'Italia si presenterà quindi al confronto con la Commissione UE per spiegare i motivi dello scostamento, che ricordiamolo è pari allo 0,2% del PIL, e lo farà con ragioni molto solide, perché è evidente come le emergenze dei migranti e quella del terremoto abbiano e avranno un peso rilevante sui conti pubblici italiani. Il punto debole rischia però di essere quello delle riforme. C'eravamo impegnati a intervenire sulla giustizia, sulle liberalizzazioni, sul pubblico impiego, sulla scuola, ma qui i risultati ancora non si vedono. Le riforme procedono troppo lentamente, tanto che lo stesso Premier Gentiloni nei giorni scorsi ha chiarito che il percorso delle riforme deve essere ripreso al più presto, e al più presto questo messaggio deve essere fatto arrivare all'Europa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Non è una grande giornata per i mercati finanziari, c'è molta incertezza, Wall Street sta cadendo, ma c'è soprattutto molta incertezza su quello che sarà lo shopping italiano delle grandi corporations europee, dopo l'operazione su Luxottica della francese Essilor e le altre operazioni che hanno visto coinvolti i gruppi italiani. Questa volta si parla di finanza, non di banche, sia mai. Nel settore bancario non si vedono fusioni transfrontaliere, ma in quello assicurativo sì. I rumors di una possibile fusione fra Allianz e Assicurazioni Generali, ma più che di fusione, si tratterebbe di un takeover stavolta, potrebbe portare, se concretizzato, il nostro colosso e unico grande gruppo assicurativo sistemico italiano nell'orbita del più grande gruppo assicurativo tedesco. Una fusione tedesca-italiana non si è vista molto nel settore, soprattutto quello finanziario, ma in realtà è tutto un settore in grande fermento in questo momento, soprattutto per effetto della congiuntura internazionale e dei tassi di interesse troppo bassi per essere sostenuti sia dalle banche che soprattutto dal settore assicurativo, dove si pagano anche le pensioni in gran parte del mondo. Comunque sia, un fatto è certo: l'Italia è tornata ad essere appetibile a tutti i grandi gruppi mondiali, vuoi perché abbiamo prezzi da sconto, vuoi per l'incertezza che continua a circondare soprattutto la stabilità politica di un paese che pensa sempre più alle elezioni che a rilanciare se stesso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.